Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 4 giugno, buongiorno e bentornati sempre di nuovo a tutte e tutti. Siamo su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk che parla tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina Bombardo alla conduzione di questo programma, ma non sono da sola perché con me c'è sempre Antonella Cortese da Parma. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno. E siamo sempre in onda, come ripeto sempre, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Allora, oggi vi porto a Milano perché nel Corriere inserto Buone Notizie c'è questo articolo a firma dei detenuti del carcere, noi detenuti e l'isolamento da Covid, ecco come abbiamo vinto la rabbia. A firma di Stefano, Giorgio, Davide, Sergio, Francesco, Massimo, Luigi, Azzedine, che sono i detenuti del reparto La Nave di San Vittore. Ed è la loro testimonianza sull'anno di Covid vissuto in quest'ultimo anno. E quindi c'è una bella foto in copertina con il carcere appunto di San Vittore, che ha questa forma un po' a asterisco, e perché la pandemia, come scrivono i detenuti, ha creato una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti, e in particolare tra le disposizioni volte alla protezione delle persone detenute c'è ancora quella in vigore, per cui nel febbraio 2020 i colloqui con i familiari in presenza sono stati sostituiti da chiamate a distanza. Sono provvedimenti chiaramente volti per la protezione della salute, ma hanno determinato un ulteriore allontanamento del carcere dalla società, aggravando nel contempo le condizioni di detenzione, scrivono questi detenuti. Questo scritto nasce dalle riflessioni di alcuni pazienti del reparto La Nave, che è un reparto di trattamento avanzato per la cura delle dipendenze patologiche presso la Casa Circondariale San Vittore a Milano. E qui è nata un'idea veramente particolare, innovativa, di utilizzare le emozioni come la rabbia, la frustrazione per la mancanza di colloqui, come occasione per lavorare sulla propria capacità di gestire le emozioni scomode, capacità soprattutto di fermarsi e pensare. Caterina, senti, ma che cosa pensano le persone ristrette di questo carcere a proposito del Covid? Saranno spaventatissime. Sì, è proprio così. Cioè, durante le discussioni all'inizio era dominante il timore da parte di tutti per il contagio. Poi è arrivata la rabbia e la frustrazione per le condizioni da allontanamento rispetto ai propri familiari. Si è parlato delle persone che hanno perso la vita perché colpite dalla malattia e anche di chi si è tolto la vita per la disperazione profonda generata dal virus. E questo passaggio continuo delle loro discussioni tra l'interno e l'esterno del carcere ha avuto lo scopo di ridurre la distanza tra chi è dentro e fuori, nell'ottica con l'obiettivo di sentirsi tutti parte della stessa società. E scrive un detenuto: mi sembrava assurdo subire una prigione nella prigione, il primo istinto è di rabbia, poi la rassegnazione, infine arrivano la riflessione e la consapevolezza di dover integrare nel mio essere anche questa sofferenza costante e preoccupazione per un genitore troppo anziano per rientrare nella categoria di parenti ammessi ai colloqui e anche per acquistare un PC e iniziare a usare Skype. E quando uscirò? Grande punto interrogativo. Caterina, che cosa ha prodotto l'isolamento nell'isolamento, di fatto? Guarda, pur essendo una misura in termini generali necessaria, la mancanza di contatto fisico che ha ingenerato l'isolamento tende a indurre sentimenti di solitudine e paura nella comunità. Quindi si è imparato in questo gruppo di lavoro all'interno del carcere di San Vittore quanto il contatto fisico costituisca una componente essenziale dello sviluppo psicologico, emotivo e cognitivo. Tant'è vero che in alcune RSA sono stati messi a punto dei dispositivi per gli abbracci in sicurezza in tempo di Covid. A tal proposito mi viene di pensare, ma i bambini che hanno magari i genitori detenuti o comunque che sono distanti, lontani, mancano proprio degli abbracci? Eh sì, certo, i bambini che non vedono da oltre un anno i loro papà. E teniamo presente che questi bambini devono gestire comunque una non presenza del genitore nella loro vita quotidiana, ma che oggi è amplificata e associata alle fatiche che tutti i bambini a causa della pandemia stanno soffrendo. E quindi questo dei bambini è appunto un tema molto molto grosso e speriamo che in qualche modo presto, grazie anche al vaccino che sta arrivando, che sta dirompendo nel nostro paese, si possa tornare ai veri abbracci. Caterina, concludiamo la settimana con Elvis? Concludiamo con Elvis, Can't Help You Falling in Love, un brano che divenne colonna sonora del film Blue Away con protagonista per l'appunto l'indimenticabile Elvis. Ascoltiamolo. Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you, shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling? Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Edu Radio. Oggi la nostra finestra sul mondo in realtà è su un aspetto in realtà della nostra vita con gli animali, perché parliamo di ornitologia. Proprio così, Caterina. In effetti chiunque alzi gli occhi al cielo può vederli. Basta avere una finestra, appunto, che si apre sullo spazio del cielo, oppure basta passeggiare in un cortile, alzare lo sguardo, alzare la testa, e ci passano sopra. Sono gli uccelli che noi abbiamo sempre considerato forse come degli animali meno intelligenti degli altri, tant'è che ci sono degli epiteti tipo cervello di gallina, oca giuliva, ma in realtà sono menzogneri, perché gli uccelli sono molto intelligenti. Infatti tre libri recenti contraddicono questa opinione. Cornacchi e pappagalli ottengono risultati paragonabili a quelli dei gatti nei test di ragionamento e apprendimento, pensa un po'. Scrive l'ornitologo statunitense David Sibley in un libro che si chiama In What It's Like to Be a Bird, nei panni di un uccello. Per molto tempo si è pensato appunto che gli uccelli non avessero addirittura il senso dell'olfatto, e ci fu un esperimento che travisò un poco questo concetto. Con un altro ornitologo, John Aubon, per esempio, si credeva che gli uccelli, nello specifico gli avvoltoi dal collo rosso, individuassero le carogne servendosi esclusivamente della vista, semplicemente perché questo ornitologo psicologo aveva messo delle carogne a disposizione di questi avvoltoi e capì che loro non si dirigevano su questi animali, ma ne cercavano di diversi, insomma, non delle carogne, ma degli animali vivi. Ma semplicemente perché non amavano mangiare carne in decomposizione e quindi avevano fatto una scelta, diciamo, di gusto, mettiamola così, dettata però dall'olfatto. E quindi raccontaci di questo olfatto, hanno un senso dell'olfatto molto sviluppato. Sì, Caterina, pensa che lo stiamo anche un po' sfruttando noi umani, perché i tecnici delle compagnie petrolifere aggiungono di proposito un composto sulfureo al gas naturale perché attira gli avvoltoi dal collo rosso, che volteggiando sopra i gasdotti segnalano la presenza di perdite, e quindi questa è una cosa molto importante. Gli uccelli tra l'altro percepiscono una gamma di suoni ampissima, molto più ampia di quella che percepiscono gli esseri umani, e l'udito svolge un ruolo enorme nelle loro vite. E se pensi ai richiami degli uccelli, che a volte sono brevi segnali proprio usati tutto l'anno e che permettono appunto di parlarsi tra di loro, per magari segnalare l'avvicinamento di un pericoloso predatore, che può essere un serpente, un gatto, un essere umano, ma la cosa interessante è che hanno suoni diversi per ogni tipo di pericolo. E poi c'è anche il canto che contiene messaggi molto più elaborati, in genere però legati all'accoppiamento, però può avere anche altre funzioni. E come quello appunto di rivendicare un territorio, allontanare i maschi rivali e anche, come immaginano le persone più romantiche, dimostrare a una femmina le proprie doti canore. E cosa mi dici invece della memoria? Guarda, ti stupirai, ma la memoria è un'altra capacità in cui gli uccelli superano gli esseri umani. Vi faccio un esempio: la nocciolaia di Clark, che è un corvide nativo delle montagne degli Stati Uniti occidentali, può nascondere più di 30.000 semi e ricordarne la collocazione precisa anche dopo mesi. Lui, cioè, li ritrova, ecco. E se pensiamo poi agli uccelli migratori, non è solo necessario avere una mappa mentale, ma anche sapere in quale direzione andare e anche per quanto tempo occorrerà viaggiare, anche perché poi c'è un dispendio energetico notevole. Tra l'altro, quando arriva il momento della partenza, le specie migratorie sono prese da una smania di viaggiare che probabilmente è dovuta proprio al cambiamento della lunghezza delle giornate, e quindi c'è questa eccitazione per la nuova partenza. E come fanno, Antonella, ad arrivare nel luogo di destinazione, gli uccelli? Allora, guarda, ci sono comportamenti innati, ma anche comportamenti appresi. E, inoltre, diciamo che hanno una forte percezione anche del campo magnetico terrestre, riescono a sentire i suoni a bassa frequenza emessi dal mare, per esempio, che possono farli orientare, e anche l'olfatto contribuisce alla ricerca di un posto preciso, oltre al fatto che possono vedere la luce ultravioletta, e questa cosa li aiuta tantissimo. E concludiamo sempre la nostra settimana con Battiato, cosa ne dici? Concludiamo con Battiato, con una canzone del 1981 che si chiama Gli uccelli. Tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in impicchiata a terra, no, meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria esistenziale. Segreti di questo sistema solare, aprono le ali, scendono in picchiata, terreno meglio di aeroplani. Ben ritrovati, sempre su Liberi Dentro, ora siamo con la nostra Rosanna Sirignano, che per Duradio è esperta e formatrice anche per la cultura e la spiritualità islamica. E oggi, Rosanna, con te passiamo dalla moschea, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, al Corano, il testo più sacro dell'Islam, che secondo la tradizione islamica sunnita e sciita rappresenta il messaggio rivelato intorno al 600 d.C. Da Dio a Maometto. Ma approfondiamo questo argomento con te, innanzitutto dalle origini linguistiche. Che cosa significa Corano e da dove deriva? Sì, grazie mille. La parola Corano è l'italianizzazione della parola araba Qur'an, che vuol dire lettura o recitazione. Ma che cosa si intende per lettura? Per lettura non si intende esattamente quello che intendiamo noi, quindi la lettura da un testo scritto, la lettura che si può fare in silenzio da un libro, ma più precisamente si intende la lettura ad alta voce. Perché appunto il Corano è stato prima di tutto rivelato come testo orale e poi solo successivamente è stato messo per iscritto. È anche interessante menzionare che proprio la prima parola che è stata rivelata al profeta Muhammad è esattamente Iqra, che viene dalla stessa radice della parola Qur'an e che vuol dire appunto leggi, nel senso di recita ad alta voce, perché questo è lo scopo del testo sacro principale. Ma che funzione ha questo libro nella vita di un musulmano? Ecco, è proprio una funzione quella che ha, e non solo una, ma diciamo molteplici. Prima di tutto, ecco, non è un testo che può essere paragonato a qualsiasi altro testo. Sì, perché è un testo sacro, ma anche perché, secondo un'ottica islamica, è la diretta rivelazione. Quindi non è un racconto, un'interpretazione successiva, ma quelle sono le parole che Dio, attraverso l'angelo Gabriele, ha rivelato al profeta. E le ha rivelate in una lingua araba chiara, che appunto poi è stata raccolta in quello che noi conosciamo come libro. E quindi proprio il libro, cioè intendo dire l'oggetto Corano, è un oggetto di per sé sacro. I musulmani recitano parte del Corano durante le 5 preghiere canoniche, ma anche durante altri momenti della giornata. Alcune sure del Corano, quindi alcuni versetti del Corano, sono delle vere e proprie invocazioni. Il Corano viene letto, per esempio, quando una persona lascia questo mondo, e quindi per accompagnarlo. È come se fosse un po' una sorta di meditazione che viene ripetuto e ripetuto e recitato, non solo, ecco, compreso e analizzato poi nel suo significato. Grazie Rosanna. Pensando a una canzone, cosa ti viene in mente? Beh, diciamo, mi viene in mente l'usignolo un po' del mondo musicale arabo, che è Fairuz con Ya Tayyir. Thank you. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre con la nostra Rosanna Sirignano, abbiamo appena ascoltato di Fairuz Yatair. E Rosanna, io so che tra le tante cose che fai insegni anche l'arabo per il Corano. Allora ti chiedo perché, qual è il significato di un corso di arabo per leggere il Corano? Sì, diciamo che la lingua araba la possiamo dividere in tre categorie. La lingua araba classica, che è quella diciamo più antica ed è la lingua del Corano, anche se da un'ottica islamica la lingua del Corano è unica, inimitabile nello stile, nella struttura, perché ovviamente è la lingua della rivelazione. Poi abbiamo i dialetti arabi, che sono le lingue, perché da un punto di vista linguistico sono effettivamente delle lingue che parlano le persone tutti i giorni, e poi abbiamo l'arabo standard contemporaneo, che deriva dalla lingua araba classica, ma che ha un uso diverso. Poiché l'arabo, poiché il Corano, ecco, va recitato in arabo, soprattutto durante le preghiere canoniche, tutti i musulmani devono saperne almeno un pochino, quindi devono conoscere almeno quelle parti del Corano che servono per pregare. E quindi questo corso è nato principalmente per venire incontro ai bisogni dei convertiti, che hanno bisogno non dell'arabo per parlarlo, per capire, per intenderci Al Jazeera o altre emittenti televisive, ma solo per recitare il Corano. E l'arabo, diciamo, ha anche un sistema fonetico molto lontano dall'italiano, quindi è abbastanza, ecco, anche faticoso. Il corso poi è stato aperto anche a persone non musulmane che non hanno la necessità di recitare il Corano ad alta voce, ma che si interessano a comprendere la lingua araba attraverso il testo sacro. Questo è un corso unico nel suo genere, perché è un corso che combina le tecniche, diciamo, tradizionali di trasmissione della lingua araba per il Corano con quelle all'avanguardia. E quindi è anche un'esperienza di dialogo, perché in classe ci sono persone di diverse religioni che attraverso il Corano approfondiscono la lingua araba classica, quindi quella più antica. Allora, Rosanna, se qualcuno ci sta ascoltando e volesse frequentare questo corso, dove può trovare le informazioni? Può visitare il sito mariamed.it oppure la pagina Facebook Mariamed Formazione Transculturale, scrivermi in privato, scrivermi all'indirizzo info@mariamed.it e sarà il benvenuto, ecco la benvenuta. Grazie di tutto, e lancio un brano alla fine della nostra chiacchierata io e ascoltiamo Trouble dei Coldplay. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Eccovi, ben ritrovati. Ci salutiamo sempre alla fine della nostra puntata ricordandovi le rubriche di oggi pomeriggio. Le rubriche oggi parliamo di: abbiamo la spiritualità islamica e la cultura araba, e poi a seguire la ginnastica da camera. Ma poi anche il sabato abbiamo sempre il rinnovamento nello spirito, il teatro del fratello e la rubrica oggi parliamo di buddismo, e la domenica il CPA di Bologna con School on Air e la rubrica di cucina a cura del FOMAL. Buon fine settimana a tutte e tutti, e un ringraziamento speciale a Pasquale Pitaniello, sempre in regia alle nostre puntate, e Antonella Cortese. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.